Ricordate, il rapporto tra i numeri è già noto. 10,8. Per quanto riguarda le potenze di 10, invece, avete un 10 alla ottava diviso per un 10 alla settima. Se fate i calcoli correttamente, dovrebbe rimanere una moltiplicazione semplicissima.